La posizione dell'uomo nel mondo. C'è stato un tempo in cui l'uomo non esisteva, poi Allah, rifulga lo splendore della sua luce, creò Adamo, su lui la pace, e da lui la sua consorte. La vera storia di Adamo ed Eva, su ambedue la pace, di cui qui tracciamo le linee fondamentali, è solamente quella che Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, narra nel sublime Corano. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, racconta di aver dichiarato agli angeli la sua intenzione di dare esistenza a una creatura particolare, un khalifa, vicario, per affidare a essa il dominio della terra. Egli creò quindi la creatura umana, Adamo, il maschio, ed Eva, la femmina. Essi, essendo stati destinatari a esercitare il loro dominio sul mondo, ricevettero da Allah, potente ed eccelso egli è, la conoscenza delle cose per esercitare in modo equilibrato i poteri che erano stati loro affidati. Contestualmente alla concessione del potere, Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, diede loro l'ordine di non avvicinarsi a una pianta. Adamo ed Eva, però, vittime della tentazione di Satana, si avvicinarono alla pianta interdetta, venendo meno all'obbedienza dovuta da parte loro ad Allah, in quanto loro creatore. Tuttavia, subito dopo aver trasgredito, essi presero coscienza della gravità della loro trasgressione e invocarono, dopo essersi pentiti, il perdono di Allah, il quale, essendo il perdonatore, l'incline al perdono, l'amante delle invocazioni di perdono a lui rivolte, li perdonò. Adamo ed Eva, su loro la pace, pur essendo stati perdonati, furono fatti uscire dal giardino e vennero fatti scendere sulla terra, ricevendo la promessa della salvezza dal fuoco per mezzo della pratica dell'Islam, che è il risultato dell'obbedienza alle direttive divine. Con la promessa ci fu l'assicurazione che nei confronti di coloro i quali cammineranno sul retto sentiero, egli eserciterà la sua misericordia. Adamo, il primo uomo, ricevette da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, delle parole contenenti un insegnamento e un codice di vita che egli, nella sua veste di primo profeta di Allah, trasmise alla sua discendenza. L'obbedienza dei primi discendenti di Adamo al codice di vita che il loro progenitore aveva ricevuto da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, fu la religione dell'Islam. Fu la religione dell'Islam. Questa è, nelle sue linee essenziali, la vera storia di Adamo ed Eva. Narratore di essa è il testimone, uno dei nomi di Allah, e la verità, un altro dei nomi di Allah. Per cui non vi è alcun dubbio che i racconti delle vicende di Adamo ed Eva, diversi da quello raccontato da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, non corrispondono alla verità e sono frutto di fuorvianti fantasticherie teologiche. Alla luce di quanto sopra, la dottrina del peccato originale, come pure tutte le costruzioni dottrinali basate su essa, non corrispondono alla verità salvifica. Il dominio sul mondo è stato dato alla creatura umana come tale, e quindi tanto all'uomo quanto alla donna. Ciò pone le basi dottrinali e pratiche della parità ontologica dell'uomo e della donna nella loro natura umana. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, il potere sul mondo lo ha assegnato all'uomo e alla donna su un piano di assoluta parità, in vista del destino ultraterreno di ambedue, pur assegnando a ciascuno di loro compiti e ruoli diversi. L'idea che fu Eva a condurre Adamo alla trasgressione dal comandamento di Allah è la giustificazione maschilista per vittimizzare la donna, dopo averla colpevolizzata come causa delle disgrazie del genere umano presso gli ebrei e come causa della passione e morte del figlio di Dio nei tormenti della croce presso i cristiani. Dalla parola di Allah, il sublime Corano, apprendiamo invece la verità. I due, Adamo ed Eva, furono fatti cadere ambedue da Satana. Ambedue, dopo essersi pentiti della loro trasgressione, invocarono il perdono divino e lo ottennero. E colui che ha ottenuto il perdono divino, ha insegnato il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, è come colui che non ha trasgredito. Atta ebumina zamb kaman la zambala. Ambedue, dopo aver ottenuto il perdono divino, entrarono nel mondo senza il peccato originale, e così tutti i loro discendenti. I figli di Adamo, tanto l'uomo quanto la donna, nascono in una condizione di innocenza e di purezza. Nessuno, infatti, porta la responsabilità delle trasgressioni altrui. Il successo dell'uomo e della donna, con la misericordia di Allah, o il loro insuccesso in questa vita e nella vita futura, dipendono dalla loro fede e dal loro comportamento personale. Nessuno è responsabile per un altro. La creatura umana, alla quale Allah ha concesso il dominio del mondo, ha ricevuto anche l'insegnamento della linea di condotta che deve essere seguita nell'esercizio di tale dominio. E dalla pratica della linea insegnata da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, derivano alla creatura umana benessere e benedizioni, mentre dalla pratica di una qualsiasi via diversa, che essa ha la possibilità di seguire, poiché dotata di libera scelta, deriva il disastro nella vita presente e nella vita futura. Satana, il fuorviatore, è sempre in agguato per cogliere ogni occasione di allontanare l'uomo dalla linea dell'obbedienza ad Allah e farlo cadere in errore. Così, proprio perché l'uomo possa difendersi dall'aggressione di Satana, gli è stato dato il codice di vita salvifico che tiene l'uomo lontano dall'eterna dannazione. Adamo ed Eva furono messi alla prova e il risultato di essa insegna che l'uomo, pur essendo la sua natura essenzialmente buona, è suscettibile di cadere in errore. Per questa sua suscettibilità di cadere in errore, Allah, nella sua infinita misericordia e nella sua infinita sapienza, ha messo a disposizione dell'uomo la guida sicura, indicandogli la via della salvezza dalle insidie di Satana. Inoltre, poiché per la sua debolezza l'uomo può commettere errori, Allah lo ha rassicurato invitandolo a non disperare della sua misericordia, perché egli perdona ogni trasgressione al di sotto di quella di associargli condomini nella sua qualità divina. La salvezza dal fuoco, per chiunque stia camminando su una delle molte vie diverse da quella ordinata da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, sta, dopo aver compreso di essere in errore e implorato il suo perdono, nel ritorno all'obbedienza salvifica sulla via del sublime Corano e della nobile Sunna, cioè di fare la sua reversione all'Islam.